di Enea, storie di nuovi italiani, di Valentina Furlanetto. Buonasera a tutti da Valentina Furlanetto, bentornati ai figli di Enea. Questa sera parliamo di lavoro. Attraverso il lavoro c'è molto più facilmente l'integrazione degli italiani che hanno origini straniere, che arrivano nel nostro paese e che molto spesso attraverso la loro professione o una professione imparata in Italia riescono ad accedere poi a tutti i servizi e ad avere anche dei rapporti sociali più vivaci, un'integrazione migliore. Spesso non sanno i datori di lavoro che possono offrire opportunità ai rifugiati, proponendo tirocini, apprendistati, formazione sul lavoro e anche un contratto di lavoro. E da questo punto di vista molte associazioni, ONG, agenzie ONU come UNHCR stanno facendo un grande lavoro di divulgazione per spiegare alle datori di lavoro, alle aziende, alle multinazionali esattamente che cosa è necessario, qual è la normativa in questo senso e che può far sì che possano offrire del lavoro ai rifugiati. Allo stesso tempo queste associazioni mettono in contatto i rifugiati o i richiedenti asilo con le aziende che sono interessate per valorizzare il loro talento, la loro competenza. Molto spesso i rifugiati hanno una formazione, hanno un lavoro che facevano nel loro paese di origine, quindi perché non impiegarli in Italia? Ed è il caso di Abero Sangare, che abbiamo in collegamento con noi. Buonasera Abero, benvenuto. Buonasera a tutti. Abero, lei ha 25 anni, è della Costa d'Avorio ed è venuto in Italia nel 2016. Grazie al progetto Seifin di Fondazione Adecco, a JP Morgan Chase Foundation e da UNHCR, è stato formato nel settore della gastronomia e della ristorazione e lavora per Carrefour. Ci racconti un po' di più della sua storia. Come mai è partito dalla Costa d'Avorio ormai 4 anni fa? Sì, certo, ormai 4 anni fa. In agosto mi fa 4 anni in Italia, quindi sono partito molto giovane. Casa, molto giovane, diciamo, sì. Perché è partito dalla Costa d'Avorio? Costa d'Avorio, cioè, avevo veramente una vita rischiosa con la politica, con tutto questo. Quindi non avevo più la libertà di muovermi, anche di vedere la mia famiglia. Poi mi ha costretto di andare via di casa, perché uno che non c'ha più la libertà di parlare, non c'ha più la libertà di vivere, e li stanno cercando per l'ammassare. Quindi uno, l'unica soluzione che ho avuto io, ma la chiamo così, anche l'unica fortuna che ho avuto, di scappare e di andare via. E come è arrivato in Italia? Guarda, io ho fatto veramente un viaggio un po' lungo, sì, perché da casa sono riuscito a entrare in Mali, sono riuscito lì piano piano ancora di andare poi avanti, che sono entrato in Algeria. Da Algeria, insomma, sono arrivato in Libia, da Libia ho fatto questa brutta strada. E com'era la situazione in Libia? Ma in Libia, guarda, la situazione era molto terribile, perché io tutto il tempo che ho passato in Libia ho passato nel carcere, in galera, quindi mi chiedevano di chiamare la famiglia, di mandare soldi. La madre io non ce l'ho più, quindi il padre che stava là, il poverino, non c'ha niente, chi devo chiamare? Quindi ogni mattina mi chiamava, mi menava, mi facevano tutto, mi torturava di chiamare la famiglia, di mandare soldi. Sono riuscito così a sopportare le sofferenze. Hai notato che l'uomo nero spesso ha un debole per i cani, pubblica foto coi suoi bambini vestito in abiti militari. Hai notato che spesso dice che noi siamo troppo buoni e che essere tolleranti poi si passa per coglioni. Hai notato che gli argomenti sono sempre più o meno quelli, rubano, sporcano, puzzano, allora olio di ricino e manganelli. Lei è partito dalla Libia con un barcone? Sì, con un barcone, sì. Il 8 agosto 2016 e siamo partiti dalla Libia a un costo libico che era Sabrata, Sabrata, e abbiamo fatto 72 ore sul mare. Agosto di 2016, che sono arrivato in Italia 11 agosto 2016, quindi praticamente 72 ore mi fa 3 giorni sul mare. Siamo partiti, mi sa, 129 persone, ma siamo arrivati in Italia 107, sì. Ho visto le persone morire nel mare, e abbiamo perso i colleghi, i compagni di viaggio. Siamo stati salvati. Un elicottero che girava là sopra, che hanno controllato tutto questo, e poi Dopo mi sa, 3 ore e sono arrivati a salvarci. Hai notato che l'uomo nero spesso ha un debole per la casa, a casa nostra, a casa loro, tutta una vita a casa e lavoro, ed è un maniaco della famiglia, soprattutto quella cristiana, per cui ama il prossimo tuo, solo se carne di razza italiana. Ed hai notato che l'uomo nero si annida anche nel mio cervello, quando piuttosto che aprire la porta la chiudo a chiave col chiavistello, quando ho temuto per la mia vita seduto su un autobus di Milano, solo perché un ragazzino arabo si è messo a pregare leggendo il Corano. E a quel punto lei è arrivato in Italia, immagino l'abbiano portata in un centro per richiedenti asilo, un centro di accoglienza. E da lì a ottenere questo lavoro a Carrefour, qual è stato il suo percorso? Parliamo della lingua, che è la cosa fondamentale, dopo si può parlare di lavoro. E da lì ho cominciato di studiare, e adesso ho fatto la scuola media, mi sono diplomato già, ce l'ho la licenza media. Senta, quanto è importante avere un lavoro per integrarsi? Ma guarda, sia il lavoro, cioè sì, andiamo un po' a trattare, a leggere un po' l'articolo 1, viene detto che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Già lì capiamo quanto è importante il lavoro. Poi vi posso assicurare che il lavoro aiuta anche le persone a migliorare la loro lingua. Vabbè, qual è stato il suo primo lavoro qui in Italia? Dove stavo al centro, ho cominciato lì a chiedergli se mi potevano dare un lavoro, così ho cominciato a lavorare con loro quasi 8 mesi, la distribuzione dei cibi con gli amici. Oggi, e lì già ho cominciato un po' a capire il modo di lavoro, quindi era sempre nel contesto della ristorazione. Quindi arrivavano i cibi già preparati. Fosse tutta una passeggiata e che bastasse cantare canzoni per dare al mondo una sistemata. Io che sorseggio l'ennesimo amaro seduta a un tavolo sui navigli, pensando in fondo va tutto bene, mi basta solo non fare figli. E invece no, e invece no. Ne ha fatto la prima busta paga? Guarda, sono stato emozionato, sì, sono stato emozionato, il primo stipendio di un lavoro, lì già subito ho cominciato, quando ho preso i primi soldi ho detto guarda, un attimo, allora sto facendo una cosa molto importante, si vedi che loro mi pagano, vuol dire che sto facendo bene il mio lavoro, allora devo fare di più. Quindi insomma stipendio vuol dire autostima, casa, indipendenza, dignità? Certo, perché lì mi ha permesso di essere autonomo, no? Che non dipendeva più di nessuno. Adesso sta studiando per diventare direttore del punto vendita. Ho un'ultima domanda, una risposta veloce. Dove si vede lei fra 20 anni? Guarda, quello che vedo magari un capo aria, un direttore regionale, perché tutto è possibile, il mestiere io sto imparando il più possibile adesso. Poi quindi in Italia, In Italia, sì certo, in Italia. Grazie a davvero Sangare per essere stato con noi questa sera. Noi ci fermiamo un attimo, subito dopo saremo con Khaled, che è originario della Libia e ci racconterà la sua esperienza di rifugiato con un lavoro in Italia, tra poco. I figli di Enea. Bentornati ai figli di Enea. Questa sera stiamo parlando di un tema centrale per l'integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro in Italia. Abbiamo sentito alcune esperienze, abbiamo sentito in particolare l'esperienza di Abero Sangare, che lavora nella ristorazione in Italia. Ora siamo in collegamento con Khaled Abderrahman, impiegato di una multinazionale farmaceutica. Benvenuto, buonasera. Buonasera, signora. Khaled, allora lei è originario della Libia e è un biologo ricercatore arrivato in Italia nel 2013. Grazie a una borsa di studio, lasciando a Bengasi la moglie e i suoi quattro figli, è arrivato in Italia. Poi ha chiesto il ricongiungimento familiare perché in Libia le cose sono molto cambiate, ma vorrei che ce la raccontasse lei, la sua storia. Sì, io, come ha detto lei, sono arrivato in Italia nel 2013 per fare una ricerca per 4 anni, grazie a una borsa di studio del mio paese. Quindi come studente è arrivato, diciamo, non come rifugiato? No, come dottorante, sì, deve per fare la ricerca del dottorato, perché in Libia non era disponibile dalla nostra università questo livello di studio. Comunque, e poi è scoppiata la guerra civile in Libia, questo ha cambiato completamente, sì, tutto. Sì. Sì, arriva, ma dopo 2 anni di prova di portare la famiglia fuori dalla guerra, per fare tutto quello ci voleva anche mancanza di documenti legalizzati dell'ambasciata italiana che era chiusa in quel momento, dovevamo fare anche il test del DNA per provare che i figli sono nostri invece della mancanza della certificati legalizzati dall'ambasciata italiana a Libia. Comunque ho sistemato tutto e meno male, grazie a questo paese che ci ha accolto e i miei figli hanno trovato la pace dopo un'esperienza dura. Loro, diciamo, dovevano passare anche un periodo di terapia psicologica per quello che hanno visto, perché erano minorenni tutti. Quindi è stato accolto dal centro Astalli, sì. E la sua famiglia è riuscita a ricongiungersi con lei, sì. Come lei, sì. Ha spiegato, e a quel punto bisognava pensare a un futuro in Italia, e allora, sì. Lì ha pensato al lavoro, no? Certo, la prima, come sa, tutti sanno che la dignità dell'uomo, di padre, di una famiglia, è il lavoro. Il lavoro, perché dietro di te 4 figlie che ti guardano, si mollano, non può cadere che sulle spalle ci sono altre persone, e io voglio che loro trovano il futuro, perché quando arriva tutti i genitori sanno questa cosa, siamo uguali in tutto il mondo quando pensiamo dei nostri figli e del loro futuro. Perdere una vita e cominciare dal zero di un altro paese ti fa rivalutare tante cose della sua vita. Prima apprezzare l'opportunità, perché abbiamo chiesto solo le cose basi, le pace, vogliamo vivere in sicurezza. Hai notato che l'uomo nero spesso è un debole per i cani, pubblica foto coi suoi bambini vestito in abiti militari. Hai notato che spesso dice che noi siamo troppo buoni e che essere tolleranti poi si passa per coglioni. Nel 2016 ha terminato il dottorato in biologia e lì ha iniziato, sì. A cercare lavoro. E dove l'ha trovato? Sì. Qual è stato il primo lavoro? Il primo lavoro l'ho trovato tramite un'agenzia di lavoro ad ECO. Ho lavorato nella biglietteria di un progetto che arrivava a Roma del Cirque du Soleil. Quindi un lavoro molto semplice, tutto sommato, sì. Molto più basso delle sue aspirazioni e della sua formazione, sì, sì, universitaria. Sì. Sì, il problema era che quel lavoro non mi permette di essere indipendente, di pagare affitto, ma cercavo di nuovo, ho mandato tutti i colloqui finché è arrivata da ECO. Quando hanno visto il mio CV, mi hanno visto che c'è un'opportunità di un'azienda farmaceutica, quindi ho fatto il colloquio, meno male, prima sono entrato come ristituire maternità, e dopo è finita con un contratto indeterminato. Quella veramente l'opportunità che per me, parola per parola, appare opportunità, perché avevo il lavoro che anche nel mio paese, forse allo stesso livello del mio, diciamo, la preparazione sarà uguale. E tu che pensavi? Che fosse tutta acqua passata, che questa tragica misera storia non si sarebbe più ripetuta. Tu che credevi nel progresso e nei sorrisi di Mandela, tu che pensavi che dopo l'inverno sarebbe arrivata una primavera, invece no. E invece no. Hai notato che l'uomo nero spesso è un debole per la casa, a casa nostra. Immagino che abbia dovuto superare una diffidenza da parte dei colleghi. Perché dovevo prima dimostrare, l'opportunità ti fa prima il colloquio, che tu devi dimostrare chi sei e come sei preparato, la tua background. Meno male che ci sono delle aziende che, diciamo, non guardano più della sua qualificazione. Quindi con la mia qualifica sono entrato di sostituire maternità, ma dopo che nella stessa azienda dopo che è finito il contratto di terminato, mi hanno chiamato per al nostro ruolo per un contratto indeterminato. Era competenza, non era un regalo comunque, ma sono rientrato con il colloquio e mi hanno scelto di entrare con un contratto indeterminato. La sfida era per formazione, far mettere tutti gli impegni per prepararsi per un nuovo ruolo, sì che serve il background scientifico, ma alla fine per il mio ruolo c'è una cosa specifica da imparare. E l'azienda mi ha fornito la formazione, mi ha fornito, diciamo, l'altro era dipende dell'sforzo che faccio. Comunque io, per me, l'opportunità apprezzata dall'inizio, so cosa vuol dire trovare il lavoro. E io che pensavo che fosse tutta una passeggiata, che bastasse cantare canzoni per dare al mondo una sistemata. Io che sorseggio l'ennesima mano seduta a un tavolo sui Navigli, pensando in fondo va tutto bene, mi basta solo non fare figli. Invece no, e invece no. Cosa significa per lei lavoro? Autonomia, dignità? Dignità prima di tutto. Autonomia è per me sostenere la mia famiglia, non solo per me, il futuro delle mie figlie, 4 figlie, la moglie, la vita, vivere una vita normale, in pace. Di che più. Cosa fa sua moglie qui? Lavora? Casalinga, perché con 4 figlie, e il quinto sono io, quindi è già un lavoro. E le sue figlie e figli che cosa fanno in Italia? Studiano, immagino. Studiano. Il piccolo fa la terza media adesso, un maschio e 3 femmine, una fa la seconda linguistica nel superiore, sta andando bene, e 2 studiano adesso nell'università di Pisa. Come è stato l'approccio con i colleghi di lavoro? C'era diffidenza o c'è stata accoglienza nei suoi confronti? Ma questo, sa, io non posso, diciamo, giudificare come, perché questo dipende all'aspetto, è una cosa un po' personale, perché alla fine con il lavoro si va, ma sempre, diciamo, in qualsiasi ambito c'è chi ti accoglie, c'è chi no, c'è normale, non è che ho visto una cosa particolare. Comunque noi siamo nel mondo mediterraneo, la cultura ci permette di comunicare più facile tra noi, anche se siamo nel nostro paese, ma non ho trovato troppa difficoltà, perché normale come se fosse nel mio paese lo stesso, non è detto che con nazionale ti accolta subito. Ha avuto dei momenti di difficoltà, ci sono stati dei pregiudizi nei suoi confronti, si ricorda un episodio di questo tipo? Forse l'azienda c'è un livello di colta più un po' alto, sinceramente forse nella comunità sì, ma al lavoro no. È una multinazionale, quindi forse sì, l'ambiente è abituato a dipendenti di varie nazionalità. Per lei com'è il futuro? Come lo vede fra 20 anni? Come vede i suoi figli? Li vede qui lì, in Italia o in Libia? Purtroppo i figli hanno lasciato Libia con una per una situazione particolare, la paura di tornare fino ad ora. Non vogliono, io cerco non di dimenticare, ma cerco che si operano un po' questo periodo e dopo valutano loro. Io mi vedo 20 anni, il futuro loro sicuramente però là qui, perché il paese quando entra in una guerra civile, ho visto l'esperienza di tanti paesi altri prima di noi. Che notizie ha dalla Libia adesso? Avrà dei parenti e degli amici ancora lì? Sì, anche i miei genitori hanno fatto una prova di venire qui, ma loro hanno tanti cose, perché in certa età dicono muoviamo dove siamo nati. Sono venuti qui per visitarmi, abbiamo fatto una prova, ma era con un periodo, con il decreto di sicurezza, era molto dura. Non è andata a buon fine, quindi sono stati costretti di tornare. Adesso stanno provando di andare, perché una sorella in Canada, un fratello in Egitto, parenti diciamo in tutto il mondo. Quelle che sono rimaste in Libia sono anche sfollati da una città all'altra, perché il conflitto tra l'est e l'ovest e il sud, quindi chi c'è nell'est si doveva lasciare, anche dentro il paese c'è immigrazione adesso, uno scappa di una realtà dura di non trovare la sicurezza, parte che anche chi lavora non può guadagnare perché la liquidità non c'è, tante cose può immaginare, penso che chi ha superato un periodo di un paese, anche se in Libia è un paese di petrolio, ma questa difficoltà non si distingue di nessuno. La guerra, quando arriva, fa lo stesso impatto a tutti. Quindi economicamente sicurezza non c'è, tante cose, il servizio di sanitario, meno male che qui il migliore del mondo che ho dovuto io con la mia invalidità, due figli con invalidità, era un gran servizio che abbiamo avuto qui. Per me era più importante per le mie figlie, ma genitori, amici lì, tutti adesso disperati perché uscita non c'è, non tutti hanno la cultura di immigrazione, perché per noi Libia era un paese tranquillo, non abbiamo prima immigrazione per motivo economico, per esempio, per essere abituati di parte che c'era un comunque tanta gente che non pensano di un'altra scelta finché stare o spostare da una città all'altra. La situazione è un po' tragedico. Grazie a Khaled Abdelrahman per essere stato con noi. Grazie mille, grazie a voi. Grazie anche a Valeria Bernardi per l'assistenza tecnica durante questa puntata, a tutti voi per essere stati all'ascolto di I figli di Enea, che vi dà appuntamento a sabato prossimo, sempre alle 21 su Radio 24. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto, ciao!